il luogo in cui ogni confessione resta segreta. Bologna è bella. Gli italiani non ammirano quanto merita la bellezza di Bologna. Ardita, fantastica, formosa, plastica, nella sua architettura trecentista e quattrocentista di terracotta, con la leggiadria delle logge, dei veroni, delle bifore, delle cornici. Che incanto doveva essere tutta rossa e dipinta nel Cinquecento! Giosuè Carducci.